Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parleremo di un argomento che nelle ultime settimane così ha occupato molto spazio nel dibattito enogastronomico, la chiusura di Ferran Adrià. Ebbene, io ho titolato questa trasmissione Ferran Adrià, cuoco rivoluzionario, semplice innovatore o un bluff? Ecco, volevo dire che io sicuramente la mia risposta l'ho già espressa più volte, ma non voglio influenzare poi gli interventi dei radioascoltatori. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666, e neppure quello delle, diciamo, dei colleghi di Ferran che sentiremo e anche di alcuni addetti ai lavori. Però volevo solo ricordare che ci sono stati molti giudizi in queste settimane di gente che mai si è seduta al tavolo di Ferran Adrià e ha espresso dei giudizi così, secondo me, veramente incredibili, non conoscendo, chissà perché hanno sparato questi giudizi. E poi c'è stato anche qualcuno che magari è stato una rara qualche volta da Ferran Adrià, ma gente abituata a oltrepassare i confini, tutto al più arrivare nel Canton Ticino. Quindi mi sembra già di aver espresso abbastanza cosa ne penso, però non voglio andare oltre, andrò oltre durante la trasmissione. Bene, voglio cominciare questo viaggio appunto in questo discorso, in questo dibattito su Ferran Adrià, con un suo collega che ha lavorato con Ferran Adrià nel passato e quindi è stato vicino a lui e quindi ci può dire assolutamente cosa ne pensa. Buongiorno Davide Oldani. Buongiorno a tutti, ciao Davide, come va? Bene, grazie Davide. Tu sei stato, hai lavorato per un certo periodo a fianco di Ferran Adrià, ma è veramente un bluff Ferran Adrià? Bluff, assolutamente un bluff. Chi dice che lui è un bluff è se stesso il bluff, secondo me. Comunque sia, lui ha portato un'innovazione bestiale nella cucina, perché è riuscito a far aprire un po' la mente a tutti noi cuochi sul fattore abbinamenti. Poi sulla tecnica e sul resto delle cose dalla Francia abbiamo già imparato molto e avremmo comunque applicato questa grande tecnica che anche lui ha imparato in Francia, perché se ricordo bene lui ha fatto Maximen nei tempi di circa 30 anni, 25 anni fa, quando era a Nizza al teatro. Quindi anche lui arriva da una scuola francese dalle quali arriviamo molti noi cuochi italiani. Però devo dire che questo fattore di abbinamenti, di azzardo nella cucina è quello che ha fatto cambiare un po' il modo di pensare e di vedere la cucina. Assolutamente non è un bluff. Quello che io posso dire è che lui ha fatto in maniera molto intelligente, che a un certo punto in cucina si è reso conto anche lui che oltre a carne, frutta, pesce e verdura non puoi dar da mangiare al corpo umano. Quindi per questa cosa probabilmente ha deciso di mollare il colpo e di dedicarsi poi a fare cultura, e che è la cosa più importante da fare. Ecco, rimani con noi Davide, perché abbiamo sempre con noi questa mattina Marco Bolasco, che oggi è direttore editoriale di Slow Food, ma un tempo era anche il direttore della guida dei ristoranti al Gambero Rosso, uno di quelli che più volte si è seduto al tavolo di Ferran Adrià e quindi può parlare sicuramente con ragione. Buongiorno Marco. Buongiorno Davide, buongiorno. A te voglio chiedere, io so benissimo cosa mi risponderai, magari sicuramente se ti faccio la domanda che ho fatto a Davide Oldani, ma chiedo un'altra cosa. Secondo te perché ha deciso di chiudere Ferran Adrià? Perché le persone che si danno delle sfide grandi, come è stato lui, a un certo punto, se sono intelligenti, capiscono che è venuto il momento di ritirarsi, e quindi come un grande cantante che evita di fare canzonette poco interessante oltre una certa età, lui ha deciso e ha capito che era il momento di frenare su questo acceleratore della creatività e comunque dell'avanguardia, che evidentemente anche in cucina pone grandi questioni, e di dedicarsi all'arte più nobile, che è quella della ricerca, che peraltro lui ha portato avanti in tante occasioni in passato. E quindi, come dire, smetto di fare il ristorante tout court e continuo a dare la mia energia, la mia testa, la mia passione, anche le mie possibilità alla causa della ricerca sulla cucina, per la cucina, e quindi ha creato una fondazione. Ma io credo che in questi giorni già qualche mese fa, non proprio in questi giorni, c'è stato anche un grande artista che ha deciso di chiudere in età molto giovane, che è Maurizio Cattelan, quindi che così è un artista conosciuto in tutto il mondo, in tutti i musei del mondo, ha deciso anche lui, dicendo probabilmente che la creatività ha un limite, e un grande creativo forse se ne rende conto e decide di chiudere. Io volevo solo ricordare, e devo dire che stamattina non può intervenire il nostro amico Massimo Bottura, che è l'unico italiano nel consiglio d'amministrazione della fondazione, nonché è stato l'unico italiano presente alla cena d'addio di Ferran Adrià, e quindi l'ho sentito solo ieri perché è in California. Bene, mi diceva che una balla che è stata sparata dai giornali in questi giorni è questo discorso che avrebbe chiuso per un passivo che il suo ristorante perdeva 500.000 euro all'anno. È una balla sacrosanta, perché lui ha detto che perdeva il suo centro di ricerche, 500.000 euro all'anno, che doveva finanziare il centro di ricerca di Barcellona, l'atelier, per questa, quindi non era il ristorante aveva 45 posti, l'avrebbe potuto portare non so a quanti posti, non solo, l'ultimo anno aveva 350.000 richieste di fronte a 8.000 posti, quindi credo che non sia stato un fattore economico. Ma voglio tornare a Davide Oldani. Davide, secondo te qual è stata la più grande, se vogliamo così, la più grande non dico invenzione, ma quella che diciamo, quella scintilla che ha saputo portare? Sicuramente non è stato il sifone, ma ci sono state altre cose? No, come dicevo poco fa, non è questione di tecnica, perché il sifone fa parte comunque, anche lui 20 anni, 30 anni fa esisteva per la panna montata, quindi lui si è applicato, ha aperto veramente gli occhi su alcuni oggetti, alcune cose da cucina che esistevano già, e li ha applicati a una nuova cucina. Ma quello che lui ha fatto, perlomeno come ha agito anche una parte su di me, anche se lui non è tra i miei maestri sono, come tu sai, Davide Marchesi, Ducasse e Gavroche, quelli con i quali ho lavorato tanto, Albert Roux, lui ha veramente aperto la mente azzardando un po' a questi abbinamenti. Quella cosa più importante che lui ha fatto è miscelare per bene questo dolce salato che anch'io ho adottato, e che vedo che con la nuova mentalità, quel nuovo modo di voler assaggiare delle cose nuove da parte del cliente, insomma c'è questa predisposizione, e lui ha aperto un po' questa strada, poi ognuno di noi l'ha interpretata a proprio modo. Beh, però guarda, io devo dire una piccola cosa, che il mondo della cucina è un po' più duro rispetto, tu poco fa dicevi Cattelan, anche scultore, artista eccetera. Il mondo della cucina deve fare i conti sul quotidiano, quindi un cuoco, secondo me, come ha fatto Robuchon prima di lui, come ha fatto lui, come farà qualcun altro fra un po' di tempo, credo, è un mondo da tenere in considerazione con un occhio diverso, perché il nostro servizio mezzogiorno e sera per tutta la vita diventa pesante fisicamente e mentalmente, quindi credo che lui abbia trovato la giusta occasione per poter lasciare nel momento migliore, e per poter dire boh, adesso mi dedico a queste altre cose. Però non dimentichiamo, e vorrei dirlo anche per quelli del mio settore, che poi alla fine del mese i conti vanno fatti, e anche se uno fa voli pindarici, fa l'atelier, fa mille altre cose, alla fine del mese questi ragazzi con cui devi lavorare e per te stesso devi farti uno stipendio. Qui bene, andiamo proprio nel centro del problema. Grazie a Davide Oldani. Ricordo numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, e io voglio chiedere a Marco Bolasco questo. Marco, chi prenderà il testimone da Ferran Adrià? Se sapessi risponderti a questa domanda, probabilmente davvero avrei la soluzione a tutto, non lo so. Questa forse è la vera difficoltà per il futuro di un movimento che ha segnato profondamente così tante novità in cucina, perché Ferran, oltre che una persona con delle doti particolari, geniale, capace, è stato tanto un leader. È stata una persona capace di mettere d'accordo, è stata una persona capace di unire, è stata una persona capace di raccogliere intorno a sé, di far pensare, e lo ha fatto sempre con un carattere, anche proprio a livello umano, personale, come tu ben sai, fuori dal comune. Quindi tutte queste sono cose che non è facile trovare altrove, quindi probabilmente anche per noi e per il nostro sistema Italia ci sarebbe tanto bisogno di un leader. Credo che Massimo su questo stia aprendo una strada nuova e quindi confido per il nostro paese tanto in Massimo Bottura. Vorrei dire una cosa, sempre a proposito di quello che si sta dicendo in questi giorni, perché provo a fare un esercizio positivo, no, in tutte queste dicerie un po' pettegole, un po' cattive. Pensiamo alla cosa forse più forte che Ferran ha fatto, cioè ha portato l'alta cucina dal concetto di borghese, quindi di ingredienti come l'astice, il foie gras, il tartufo, che sono ingredienti meravigliosi, ma evidentemente anche un po' costosi e parziali, a riflettere su materie prime semplici. E quindi Ferran, per esempio, ci ha portato in tavola dei giochi sulle verdure, dei giochi sulle maturazioni delle verdure, penso per esempio alla frutta secca, quelle meravigliose insalate che costruiva, alla riflessione sulla patata nella sua massima espressione. Ecco, tutte queste cose sono, secondo me, una rivoluzione fantastica e sono un qualcosa che ormai fa parte del nostro modo di ragionare. Tanto che andiamo al ristorante anche a mangiare cucina tradizionale, al ristorante intendo dire quello importante, quello alto, molto molto più di prima, e questo credo forse un pochino anche grazie a Ferrani. Bene, grazie a Marco Bolasco, ti ringrazio. Ora sentiamo un personaggio del mondo dell'industria come Giuseppe Lavazza, vicepresidente del gruppo appunto Lavazza, che lo ha avuto come collaboratore. Sentiamo appunto questa collaborazione, come si è sviluppata. La collaborazione con Ferran Adrià è incominciata all'incirca 10 anni fa e da allora non abbiamo mai più smesso di lavorare con grande impegno su moltissimi argomenti, sempre alla ricerca di un'esaltazione del gusto e delle caratteristiche genetiche profonde del nostro prodotto bandiera che è l'espresso italiano. Abbiamo iniziato a lavorare sul caffè espresso innovandone la consistenza, la temperatura di servizio, l'aspetto, la preparazione, la presentazione. Abbiamo creato espresso, il primo espresso che non si beve ma si mangia. Era l'essenza stessa del caffè espresso, ma da mangiare, ed è stato il nostro Big Bang. Da lì in avanti la collaborazione ha toccato molti ambiti. Sul prodotto abbiamo trasformato il banco di un bar in un laboratorio in grado di sfornare un espresso come non lo si era mai visto e come non lo si era mai assaggiato, grazie all'utilizzo di tecniche di preparazione innovative e spettacolari, dal sifone alla sferificazione, dall'azoto liquido per fare meringhe ghiacciate di cappuccino alla eliofilizzazione, dall'abbinamento con ingredienti tradizionali come per esempio il cioccolato a quelli meno consueti come il succo di frutto della passione. Ecco, perché secondo lei ha deciso di chiudere Ferran Adrià? Io credo che l'esperienza del Bugli sia stata tanto intensa quanto impegnativa, sia sul lato professionale che su quello personale. Ferran Adrià è una persona che proprio non si risparmia, e essere numero uno per tanti anni ha senza dubbio significato fare dei sacrifici enormi, non solo durante i mesi in cui il ristorante era aperto, ma per i continui aggiornamenti, i viaggi, gli studi che necessariamente doveva fare in vista della preparazione delle nuove proposte. Ma penso che un'altra importante ragione risieda nel desiderio di poter condividere con un pubblico molto più ampio il suo percorso di ricerca e di creatività. La rete, l'accessibilità degli strumenti digitali, i social network, hanno sicuramente acceso molte lampadine nella mente di Ferran Adrià, che ha intravisto la possibilità di creare un fenomeno intorno alla sua idea di creatività, alla cucina innovativa e al gusto, superando il limite dei tavoli e dei posti a sedere. Essendo da sempre un incredibile comunicatore, una persona di grande lungimiranza, io ritengo che avrà modo di stupirci ancora, toccando nuove e inesplorate esperienze. Bene, grazie a Giuseppe Lavazza. Ora abbiamo con noi Moreno Cedroni. Moreno Cedroni è stato un altro che, diciamo, come posso dire, non ha avuto Ferran Adrià come docente, ma sicuramente anni fa credo che lo abbia molto ispirato sulla sua cucina. Non so se ho detto il giusto, Moreno. Verissimo, anzi, come leggevo nel libro poi di Gran Alchatz, il miglior cuoco americano, anche lui scrive: sono stato 3 giorni da Ferran e ho capito quello che mi serviva, ecco, quindi è successo questo praticamente nel 1999. Ecco, ti chiedo, può venire a un certo punto, diciamo, su un cuoco che fa molta cucina creativa e non cucina tradizionale o altri tipi di cucina, il momento in cui si accorge che la creatività, diciamo, non è più quella di un tempo e decide piuttosto che continuare magari a ripetere le stesse cose a fermarsi? Ma sai, un poco come Ferran, che ha nel suo bagaglio migliaia di piatti, poteva semplicemente ripetere i piatti che aveva fatto nel corso degli anni e avrebbe vissuto di rendita. Quindi, però lui, ecco, non è una persona che non si accontenta, che vuole sempre darsi delle sfide, quindi ha preferito, ecco, con questa fondazione darsi un tipo di sfide diverse. Questo è molto comprensibile, lo vedo io nel mio piccolo, quando fai ricerca e sei in mezzo al servizio, sono due cose molto difficili da combinare, dove cerchi un po' di essere un surfista che dribbla tra le onde, ecco, quindi sono due concetti difficili da mettere insieme. Ecco, secondo te cos'è che ha dato, che lascia, diciamo, come maggior frutto al mondo della gastronomia, Ferran Adrià? Ma io penso, per me, ma penso anche per molti miei colleghi, si crea un vuoto, perché comunque ha lasciato dei segni molto forti e questo si vede anche dai suoi libri, ecco, un cuoco si vede anche dai suoi libri, da quello che permette agli altri di conoscere, e questo lui è stato unico assolutamente. A me lascia un vuoto particolare, perché proprio quest'anno, quando sono stato da lui a gennaio, chiamiamola l'ultima cena, e ho mangiato della selvaggina cruda, e mi ha ispirato il nuovo menù del clandestino, quindi... Ah, bene. Quindi un messaggio che continua al clandestino. Grazie Moreno, sentiamo Filippo dalla provincia di Lucca. Buongiorno Filippo. Ecco, Filippo è caduta la linea. Bene, abbiamo con noi Bob Noto. Bob Noto è un globetrotter della gastronomia, credo che sia la persona che più volte si è seduta al tavolo di Ferran Adrià. E allora a lui chiedo questo. Caro Bob, è stato un rivoluzionario, un innovatore o è stato un bluff? Beh, no, è stato assolutamente un rivoluzionario, un innovatore. Io credo che nella storia dell'alta cucina ci sarà proprio un prima e un dopo Ferran Adrià, riuscire a trovare un tipo di cucina che ha modificato così tanto il panorama dell'alta cucina mondiale. Bisogna tornare quantomeno alla nouvelle cuisine, se non addirittura ad Escoffier. Siamo a quei livelli lì, a mio parere. Ecco, ecco, secondo te perché ha deciso di chiudere e poi di ricominciare dopo due anni, insomma, perché... Ma allora, lui diceva che tutti i cambiamenti, lui aveva fatto proprio quando ha fatto una conferenza stampa annunciando questa cosa qua in Italia, diceva che lui, se non cambia formula, tende ad annoiarsi, a sedersi, ed è una cosa che assolutamente non fa bene a chi persegue invece una cucina in continuo movimento. Questa è una formula assolutamente nuova, questa della fondazione, che nessuno ha mai fatto prima, e questa è sicuramente una situazione che dà più stimoli che non quella in cui si muoveva prima. Ecco, io ho qui un'intervista rilasciata proprio in questi giorni in Spagna, dice: il futuro sono le tapas e la comida informal. Quindi che sia questa la direzione dove si va, dove ha capito probabilmente che si va, forse ha capito che ci sono dei cambiamenti enormi e si va verso formule completamente diverse. Ma dunque, io credo che nella fondazione verranno fatte, la ricerca seguirà più o meno all'incirca gli stilemi che venivano perseguiti al Bugli. Penso che questa affermazione qua l'abbia fatta in generale per la cucina. Tra l'altro, come tu sai, lui ha appena aperto col fratello un bar a tapas fantastico nel centro di Barcellona, che si chiama Tickets. Sì, sì. Pronto? Sì. Pronto, sì, ti abbiamo ascoltato. Ah, ecco. Sì, sì. Ecco. Si chiama Tickets? Prego. Sì, si chiama Tickets ed è buonissimo, le tappe sono di qualità altissima. Ecco, rimani con noi perché abbiamo un radioascoltatore, Massimo da Latina. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Prego. Io mi occupo di ristorazione biologica, quindi non posso che essere contrario a Adrià. Quindi sono felice che lui abbia chiuso, anche se sono convinto che farà proseliti in altri campi. Io invece sono per il ritorno alla freschezza. Quando sento i cuochi italiani, che un po' si ispira a Massara Adriana, provo sempre dei brividi. Ma scusi, che contrasto c'è tra la cucina biologica e quella di Ferran Adrià? Mi faccia capire. Beh, Ferran Adrià utilizza molti additivi chimici, le sue texture. Ma guardi che è stato, queste texture erano state sequestrate, ma sono state dissequestrate, quindi... questo è un altro conto, però... additivi naturali, usa additivi naturali, che sono una cosa un po' diversa dagli additivi chimici. No, da quello che risulta a me utilizza additivi chimici. Ma lei c'è stato molte volte a mangiare da Ferran Adrià? No, non ci sono mai stato a mangiare da Ferran Adrià, ma questo non vuol dire nulla. Mi sono documentato, ho visto le sue ricette, ho cercato di capire come lui lavori, quindi non vuol dire nulla essere stato a mangiare lì o meno. Beh, volevo chiedere a Bob Noto se risulta che usa additivi chimici. Tutto parte il fatto che nella storia di Ferran Adrià, della cucina di Ferran Adrià, ha iniziato ad usare le texturas solo dal 2003 in poi, quindi una parte assolutamente parziale di quella che è stata la cucina e i cambiamenti che ha portato Adrià. In ogni caso lui è sempre partito da prodotti freschissimi, assolutamente fantastici. Non solo, chi conosce la cucina di Ferran e ha mangiato da lui sa che qualsiasi cosa può succedere tranne che lui cambi il gusto dell'elemento. L'elemento viene sempre rispettato. Poi le texturas sono elementi che servono principalmente solo a cambiare la textura, giusto appunto, dei cibi. È un po' come dire che un pollo in gelatina è una cosa non naturale. Questo qua è il famoso grande equivoco in cui si cade quando si parla di Ferran. Un pollo in gelatina è in realtà un piatto in cui c'è un additivo chimico, perché i fogli di gelatina sono additivi. Bene, grazie a Bob Noto. Eccoci di nuovo a parlare di Ferran Adrià. Abbiamo sentito appunto un ristoratore che fa cucina biologica che ha sollevato il problema degli additivi chimici. Allora, noi abbiamo in linea il docente Davide Cassi, che è docente di fisica della materia all'Università di Parma, nonché forse il maggiore esperto italiano di cucina scientifica. E a lui appunto voglio chiedere, io so che conosce abbastanza bene diciamo ciò che ha fatto e che fa Ferran Adrià, voglio fare proprio questa domanda su il discorso degli additivi chimici. Buongiorno Davide. Davide Cassi. Ciao Davide. Ciao. Ti risulta appunto il discorso, è ritornato fuori il discorso di textura e degli additivi chimici. Volevo da te un parere su questo. Ma guarda, la prima cosa che vorrei dire è che in realtà questi costituiscono solo una piccola parte di tutta la cucina di Ferran Adrià. Tu che lo conosci bene e ti hai mandato più volte lo puoi confermare benissimo. Chiaramente nell'ambito di una ricerca creativa lui ha esplorato tutte le vie possibili e a un certo punto della sua carriera, in occasione di un progetto europeo di collaborazione con le industrie, ha esplorato l'utilizzazione di alcuni ingredienti, io lo chiamerei piuttosto che additivi, utilizzati comunemente dall'industria come additivi, in una funzione completamente nuova, che era quella gastronomica, e ha tirato fuori delle cose estremamente interessanti. Ora, fanno bene, fanno male, ma in realtà queste sostanze sono tutte consentite dall'Unione Europea e molte persone che si scandalizzano quando sentono che le usa un cuoco ne mangiano delle quantità decisamente superiori nell'alimentazione quotidiana, comprando magari, che ne so, la merendina al supermercato. Per cui mi sembra un fuoco di paglia, proprio uno scandalo di quelli suscitati tanto per discutere un po', tanto per far polemica. Uno di questi è la lecitina di soia che si può comprare a chili nei supermercati, se non erro. Ma la classificazione di una sostanza come additivo, l'ho ribadito più volte, è giuridica e non scientifica. Noi non abbiamo nessuno strumento analitico che ci permetta di dire che questa sostanza è un additivo. Ma semplicemente a un certo punto il legislatore ha stabilito una lista di sostanze classificate come additivi. Ma è un additivo anche la vitamina C, tanto per citartene una. È un additivo la colla di pesce. Quando tu mangi una panna cotta fatta con la colla di pesce da un ristoratore che si dichiara tradizionale, tu stai mangiando un additivo. Bene, rimani con noi Davide, sentiamo Renzo da Belluno, buongiorno. Buongiorno Renzo. Buongiorno, buongiorno. Prego, prego, Davide. Prego. Allora, io sono stato una volta solo da Ferran Adrià, sì. È stata un'emozione unica e grande. Comunque, quello che diceva prima il signor Bob Noto, sì. Dal mio punto di vista, chi ha cambiato realmente il modo di stare in cucina per tutti quanti è stato Gualtiero Marchesi, che ci ha insegnato come strutturare un piatto. Senz'altro ha influenzato anche Ferragni Adrià, ha influenzato qualcosa, ma non possiamo paragonare le due epoche. Bene. Ferragni Adrià non può influenzare la costruzione di un piatto, di una cucina quotidiana di tutti quanti, invece Marchesi è riuscito a influenzare tutti quanti. Bene, grazie Renzo. È un'epoca molto più importante dal mio punto di vista quella di Marchesi e quella di Ferragni Adrià, dal mio punto di vista. Grazie Renzo della sua testimonianza. Sentiamo Filippo dalla provincia di Lucca. Buongiorno Filippo. Salve, scusate per il viavai della linea, ma prego, prego. Io volevo chiedere quanto secondo i suoi ospiti ci può essere di creativo in una cucina tradizionale, e poi volevo chiedere quanto una cucina creativa è influenzata dal momento storico che stiamo vivendo. Certo. Io le porto l'esempio mio, che ho un piccolo ristorante a Pietrasanta e ho aperto in anni di piena crisi, era il 2008, e quindi il mio ristorante ha, da una parte anche per fortuna, subito delle, come posso dire, delle forti, diciamo, fatto a meno di tante cose che magari fino a qualche anno fa si sarebbero ritenute indispensabili. Bene, terza cosa, velocissima, e poi la saluto. Il nuovo modo di concepire la cucina da parte dei clienti, c'è molta attenzione a diciamo, alla sfera nutrizionista. Quanto deve essere tenuta in considerazione, secondo gli chef che sono in collegamento con lei, un argomento del genere? Ma guardi, abbiamo con noi un personaggio abbastanza importante che le può rispondere, Carlo Cracco. Buongiorno Carlo. Buongiorno Davide. Hai sentito questo Filippo, ristoratore della provincia di Lucca, che ho capito chi è, ma insomma ha fatto tante domande. Vuoi tu dare una risposta magari unica? Ma guarda, io ho sentito prima anche di Gualtiero Marchesi, credo che quello che ha fatto Gualtiero sia unico nel panorama nazionale, quello che ha rivoluzionato la cucina, però è rimasto più in un ambito diciamo nazionale. Quello che ha fatto Ferran è mondiale. Io sono stato in Australia, in Russia, in paesi agli estremi del globo e tutti conoscono Ferran Adrià, perciò voglio dire, bisogna dare merito al merito, ecco, senza togliere nulla a Marchesi, che è stato un grandissimo. Senti, questo discorso di quanto si può portare di creatività nella cucina tradizionale? La domanda è ognuno di noi, ognuno. Ogni chef, ogni cuoco, come vogliamo chiamarlo, tanto secondo me non cambia nulla, deve mettere quello che si sente dentro. Non è necessario, cioè non è una dose del farmacista che bisogna mettere un pizzico di questo, un pizzico di quello, un pizzico di quell'altro e alla fine viene fuori la ricetta. Uno fa quello che si sente dentro. E il grande messaggio di Ferran è proprio quello: fai quello che ti senti, non devi fare quello che faccio io, devi fare quello che ti senti dentro. C'è una grandissima apertura nella cucina di Ferran, perché ha preso tutto e tutti e valorizza quello che gli piace, tratta tutto. Quando si fa questo mestiere non si può decidere di essere creativi o tradizionali, è una grandissima bugia questa. Si fa quello che si sente dentro. Tu dici che le etichette vengono dopo, vengono date dagli altri. Ma le etichette è un modo, è come diceva prima Cassi, la legislazione ha deciso che quello si chiama così. Bene, noi ci chiamiamo ristoranti, ci chiamiamo. L'importante, voglio dire, è capire quello che stiamo facendo. L'importante. Credo che sia veramente seguire quello che uno vuole fare, non che sia di qua o di là, non c'è questa differenza in cucina. Bene, rimani con noi, sentiamo Lucia sì. Dalla provincia di Chieti. Buongiorno, dunque io volevo intervenire sul discorso fatto dal professore che diceva che gli additivi li troviamo in qualunque merendina. Però una merendina a parte la paghiamo meno di quello che paghiamo in un ristorante di un certo nome. E seconda cosa, allora tutto il discorso fatto per esempio sul cibo cinese va a farsi benedire, perché purché io dia qualcosa che sia bello e che apparentemente sia buono, va tutto bene. No, non capisco il cibo cinese, cosa c'entra? Non ho capito questo passaggio. Il cibo cinese ci danno delle porcherie che però possono avere un buon aspetto. Hanno anche un buon aspetto, basso. A volte sì, a volte mi è capitato di vederli e non sono propriamente repellenti come Io non è non voglio che voglio difendere la cucina cinese, ma perché la cucina che mangiamo noi cinese in Italia e magari anche in Europa è una cosa come la cucina degli emigranti italiani negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Quindi facciamo attenzione, la cucina cinese ha una tradizione e sicuramente anche quella, cioè ha dei livelli, come abbiamo dei livelli anche di cucina italiana e di cucina francese, quindi non facciamo di tutto un erbo un fascio sulla cucina cinese. Comunque Davide Cassi, se vuoi rispondere alla signora sul discorso delle merendine. Ma guarda, il mio discorso era assolutamente neutro, intendevo che Ferrano Adrià ha utilizzato degli ingredienti, perché io li chiamo ingredienti, che comunemente l'industria utilizza con una funzione diversa, per esempio per dare più struttura, per conservare più a lungo qualche prodotto. Ora, il punto è che lui li ha utilizzati con un fine gastronomico, cioè per ottenere delle cose nuove e più buone rispetto a quelle che produceva con altri strumenti. Dopo, il concetto che uno debba pagare o meno per questi piatti è assolutamente relativo al ristorante. Io trovo che tutto sommato il prezzo di una cena al Bugli fosse estremamente basso rispetto a quello che ti offriva. Ci può essere poi qualche ristoratore che compra questi ingredienti, li utilizza in modo puramente scenografico, non fa piatti buoni, allora è assolutamente da condannare. Però non è da condannare né Ferran né chi produce questo ingrediente. Sai che più di una volta Ferran stesso ha dichiarato: se voi mangiate una cattiva pizza dovete prenderla col pizzaiolo, non con chi ha inventato la pizza. Quindi tu dici l'utilizzo, insomma. Ricordo numero verde 800 24 00 24, e voglio tornare a Carlo Craco con un'ultima domanda. Volevo chiedere, secondo te, dal punto di vista vero e proprio di cucina, qual è stato, cioè c'è un qualcosa che Ferrano Adrià ha lasciato, ha inventato e quindi è una qualcosa su cui lavorare e continuare? Ma se c'è una cosa, io direi che ce ne sono mille. Innanzitutto ha dato una visibilità ai cuochi, ha consacrato i cuochi, ecco, più che dato una visibilità li ha consacrati, no? Ha fatto diventare il cuoco veramente una persona importante e degna anche del ruolo che riveste, e di questo è successo grazie a lui. Poi se devo andare a vedere tutto quello che ha fatto dall'inizio a oggi, voglio dire, ci ha lasciato un patrimonio incredibile, no? di apertura, di disponibilità, di condivisione, no? Cioè, oggi la fortuna che noi abbiamo nel mondo in cui viviamo è che abbiamo la disponibilità di poter accedere a tutte queste informazioni. Quindi, per cui ha fatto un grandissimo lavoro di divulgazione, che è la cosa forse fondamentale per chi fa questo mestiere, no? Per cui dobbiamo cercare di portare avanti, soprattutto di spingere in là quella che è veramente il futuro della ristorazione, perché oggi la ristorazione è molto in crisi, ma è in crisi perché vive su dei modelli che sono vecchi, vive con delle regole che sono vecchie, che non sono nemmeno state pensate per la ristorazione, perché la ristorazione è andata avanti, la legge è rimasta sempre la stessa, per cui noi oggi ci troviamo ad affrontare dei problemi enormi, ma senza il supporto di chi dovrebbe invece aiutarci. Per cui il problema vero è pensare, andare avanti, cercare di creare qualcosa che ci permetta di andare nel futuro. Sì, mi sembra di capire, Carlo, che tu dici la regione di Catalogna e la Spagna hanno aiutato molto Ferrano Adrià. Questo è il punto, e l'Italia non fa altrettanto. Mi sembra sia questo. Per noi, insomma, io non voglio criticare, perché fare le critiche è sempre facile, soprattutto quando si sta dalla parte di qua. Però, ecco, cioè, sentire un presidente del Consiglio che comunque difende determinati valori, pur magari non condividendoli, magari, però solamente perché comunque è necessario condividerli per far crescere tutto un settore che diventa traino. Non dimentichiamo che Ferran è ambasciatore del turismo, ha fatto un sacco di lavoro per la Spagna che la gente nemmeno a volte considera, E questo è importantissimo, perché la ristorazione è diventata veramente un motivo di turismo, certo. Di turismo e di persone che vanno a visitare luoghi, ristoranti e anche alberghi e tutto quello che musei e tutto quello che c'è collegato, grazie anche a volte a un ristorante. No, ma soprattutto si sono scoperti in Italia dei luoghi, dei posti, dei paesi con un ristorante, cosa che prima non era mai successo, magari non c'erano stati alcuni visitatori, a cominciare, potrei elencare decine. Grazie a Carlo Cracco e grazie a Davide Cassi. Eccoci di nuovo, sentiamo Maurizio da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti voi. Grazie. Io sono stato più di 40 anni uno chef di cucina in giro per il mondo, quando c'erano le brigate ufficiali e si era proprio chef di cucina. Oggi credo che la maggior parte sono operatori culinari, però volevo dire a tutti quanti di lasciare anche nelle carte, nei menù e a fianco anche la cucina tradizionale, perché non si trovano più piatti nostri italiani. La saltimbocca, io devo andare all'estero per mangiare un buon saltimbocca, o un gnocchi di riso alla romana, uno spezzatino coi piselli. È vero tutta sta ricerca, quello che si vuole. Ieri sera sono andato qui a un ristorante di pesce a Roma, bene, tranquillo, grandi piatti, poche porzioni, però nessun piatto tradizionale, nessun sughetto in umido. Grazie. Tutta roba alla griglia, tutta roba così, senza carattere, senza quello spirito bello passionale della cucina italiana. Maurizio, guardi, non l'ho fatto apposta, però in linea un personaggio che invece incarna proprio la cucina italiana, una cucina italiana molto particolare, molto diciamo molto sudista, però con grande caratterizzazione, Gennaro Esposito del Torre del Saracino. Quindi io non faccio questa domanda a Gennaro, ma credo che avendo chiamato lui proprio rispondo alla sua richiesta. E a Gennaro voglio chiedere questo: la sua cucina non ha niente a che vedere con quella di Ferran Adrià, proprio, diciamo, può essere considerata agli antipodi. Però voglio chiedere a Gennaro, lui cosa ne pensa di Ferran Adrià? Ma guarda, buongiorno innanzitutto a tutti e ciao Davide. Ciao. Sono contento di poter esprimere la mia opinione. Ognuno fa la cucina che conosce e ognuno dirige l'attenzione verso una ricerca diversa. Quindi io penso che Ferran Adrià è sicuramente un fenomeno interessantissimo, uno che ha fatto una rivoluzione significativa nel mondo del cibo. Io sono andato da lui e già il fatto che un uomo in un posticino in un angolo lontanissimo da Barcellona abbia avuto l'energia, la forza, la mentalità e la caparbietà di fare quel discorso, per me è veramente da ammirare. E poi veramente è riuscito a condizionare il mondo della gastronomia. Poi da lì sono venute fuori tante diramazioni diverse, come spesso succede con chi rompe gli argini, no? Certo. E penso che abbia fatto un gran bene alla gastronomia mondiale. È chiaro che chiunque abbia pensato di imitare Ferran Adrià ha fatto sempre dei grandi flop. Chi invece ha raccolto la sua filosofia e ha cercato una strada propria, ne vediamo tanti di esempi nel mondo, di discepoli di Adrià che hanno fatto dei grandi ristoranti. Grazie Gennaro. Sentiamo Pietro da Florida, credo in Sicilia, vero Pietro? No, Florida, sta in Florida, Winter Park, Florida. Ah, lei sta chiamando dalla Florida? Ah, io credevo. No, sto chiamando dall'Italia, ma è una scuola di cucina in Florida. Ah, bene. La mia domanda è solo una. Ferran Adrià è sicuramente uno molto bravo. La mia domanda è: chi c'è dietro Ferran Adrià esattamente? Cioè, tutto l'uso di questi sistemi e di queste concezioni che lui ha, dove l'ha imparate, l'ha sviluppate solo lui, che scuola di cucina ha fatto? Perché è molto riconosciuto qua negli Stati Uniti, gli hanno rilasciato molte lauree ad honorem, però effettivamente la storia stessa di Ferran Adrià non è mai stata molto chiara. Ma guardi, è chiarissima, è iniziato in Francia, il suo primo maestro è stato Maximin. E poi è andato al Bulli e lì ha sviluppato il suo discorso. Quindi secondo me lui ritiene che il suo più grande maestro appunto sia stato questo francese. Però chiediamo a Max Salaimo che è chef delle Calandre, anche lui fa una cucina molto creativa, però sicuramente non è un seguace di Ferran Adrià, ha sviluppato tutto un suo discorso. E chiedo, io so che lui è stato da Ferran Adrià, però voglio chiedere, proprio basando da questo, c'è proprio bisogno di avere un maestro Massimiliano per sviluppare un certo tipo di evoluzione nella cucina? Ciao a tutti. Il maestro è sicuramente necessario, però ognuno di noi ha i propri maestri. Io credo che la fonte ispiratrice sia un po', come ha detto anche Carlo, no? Guardarsi dentro e cercare di perlustrare i propri percorsi, cercare di capire e conoscere attraverso la cucina, attraverso quelli che sono i nostri strumenti, le nostre possibilità espressive, quello che vogliamo, dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo comunicare. Ferran è stato, sembra che sia mancato, in realtà è ancora qui con noi fortunatamente, è stata una persona, un grande comunicatore, e continua ad esserlo e continua probabilmente un percorso di sua crescita e di sua conoscenza che gli permette di perlustrare a modo suo il mondo gastronomico e probabilmente non solo. Ecco, io credo che questo tipo di strategia che stia adottando sia molto funzionale a quello che è la sua disciplina, per cui è un grande calcolatore, è una persona che cerca di misurarsi, no? Per cui credo che è come se possiamo fare un'analogia, è una persona che ha una bellissima maglietta, un po' tutti gliela tirano, cercano di strappargliela, a un certo momento uno sente la necessità di togliersela, di stare un po' a petto nudo e poi trovarsi qualche altra maglietta. Credo che questo sia un po' il suo percorso, quello che lui vorrà fare. Poi in una società multimediale sicuramente lui ha, essendo anche così tecnologico, così attratto da questa possibilità di contaminare, vorrà concentrarsi proprio su questo. E, insomma, credo che sia comunque affascinante poter ascoltare un punto di vista. Rimani con noi, sentiamo Fulvio dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Salve. Fulvio. Sì, prego. Salve, buongiorno. Io sono un ristoratore della provincia di Brescia. Una cosa che devo riconoscere ad Adriano Ferran è semplicemente questo: la possibilità di avere intuizioni date ai giovani per poter amare ancora questo tipo di lavoro, che è un lavoro di molto sacrificio dal punto di vista personale e anche dal punto di vista professionale. Una grande cosa che ha fatto quest'uomo è proprio stata questa: cercare di far innamorare con il suo comunicare e con il suo studio delle materie prime qualche bel, bravo, giovane nostro italiano e anche non italiano. È una persona che sicuramente ha bisogno di essere riconosciuta almeno per questo, per il fondamento che ha dato a lui in merito a quello che è la risorsa della scelta del lavoro verso questo tipo di lavoro. Bene, grazie Fulvio. Un'ultimissima domanda, poco tempo per Massimiliano, però voglio chiedere, siccome lui sicuramente è un creativo della cucina, voglio chiedere, tu pensi che arrivi il momento in cui la creatività, diciamo, comincia a perdere dei colpi e quindi si decidano altre strade? Pronto? Nel momento in cui tu non hai più voglia o necessità di conoscere attraverso quel tipo di disciplina, probabilmente sì, ma non perché ti smette la creatività, ma perché ti cambiano gli interessi. Non credo sia il caso di Ferran. Okay. Grazie a Massimiliano Alaimo. Allora, qui c'ho un sms a cui io avevo già risposto sulle 500.000 euro all'anno col ristorante. Non li perdeva col ristorante, ma aveva parlato, quando ha, diciamo, fatto riferimento a questo, al suo centro di ricerca e all'atelier, quindi era un'altra cosa. Ho avuto la fortuna di provare la cucina di Ferran, non faccio parte del circuito del cibo, ma è stata un'esperienza fantastica a livello sensoriale, un vero spettacolo. Esther da Monza. Bene, poi c'ho anche una cosa che non capisco, però la leggo: io spingerei in là quelli che se ne approfittano e ti spennano. Non so a chi sia il riferimento, sicuramente questo signore che l'ha scritto due volte questo sms aveva qualcuno a cui fare riferimento. Io, se metteva nome e cognome, sarebbe stato molto meglio. Bene, siamo arrivati alla fine di questo giro. Io ringrazio Peter Bescapè in regia e Alessandro Balia in redazione. Vi do appuntamento domani con Il riposo del guerriero alle 11:15. ogni giorno alle 11.05, 23.05 con la pillola. Vi auguro buon weekend e a molti buone vacanze.